Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la cultura, gli stili di vita, mettendo al centro la vita degli animali non umani. È la puntata numero 612 e parleremo di scoiattoli messi in salvo, di alimentazione, di lavori ingrati, di colonialismo nella conservazione. Il nostro versatile Gabriele Palloni cura la colonna sonora della puntata ed è anche autore della ricetta della settimana. Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico, importante, e che sia piena di bei ragionamenti. Insomma, una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare. Lo sciocco in blu. Nella puntata passata abbiamo parlato delle cosiddette specie aliene e della decisione dell'Emilia-Romagna di procedere alla eradicazione dello scoiattolo grigio, considerato ad essere un intruso e in competizione con l'autoctono scoiattolo rosso. Nelle intenzioni della regione si sarebbero dovuti catturare tutti gli scoiattoli in circolazione per poi eliminarli in apposite camere a gas. Un progetto di sterminio terrificante, evocativo delle peggiori pratiche e di dubbio senso anche da un punto di vista ecologico. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia della marcia indietro. La regione, convinta forse anche dalle proteste per l'enormità del fatto e per i modi dello sterminio, ha accettato la proposta della Lega Antivivisezione, LAV, la maggiore associazione animalista italiana, che ha ottenuto la possibilità di prendersi cura degli scoiattoli catturati. Gli animali saranno spostati in una zona protetta autorizzata dal Ministero dell'Ambiente e lì perlomeno potranno continuare a vivere. Massimo Vitturi, responsabile per la LAV del settore animali selvatici, ha commentato la notizia osservando che il regolamento europeo per la gestione delle specie definite invasive prevede che gli animali siano eradicati utilizzando metodi letali o non letali, ma inevitabilmente le amministrazioni scelgono sempre di procedere con gli abbattimenti. Non è però tollerabile, dice Vitturi, che gli animali paghino per responsabilità altrui, come nel caso degli scoiattoli grigi, che per decenni sono stati venduti come animali da compagnia, mentre i commercianti, gli importatori e gli allevatori si sono arricchiti sulle loro vite. Per questo motivo, ha detto infine Vitturi, chiediamo che il governo concorra al finanziamento della ricerca sul vaccino immunocontraccettivo, che procede con ottime prospettive ma troppo lentamente e rappresenta l'unica prospettiva realmente praticabile per favorire la convivenza con gli animali selvatici, scoiattoli grigi compresi, rispettando le loro vite, perché agisce unicamente sull'inibizione della riproduzione. Ragazza che imbratti i muri del metrò, pensavo di offrirti un sorso di Zabon. Ma cosa leggo? Preferisci del Vov. Sai, la scritta che hai scritto, sai, mi piace assai. Sai, quel tuo corpicino che guardava me, ha spinto il mio corpicione verso te, che scrivi sui muri milioni di sigle tipo at, at, v, um, d, v, come sei attraente tu, che sogni quel ciccio bombo dei tendet. Fai le prime esperienze con il tuo gilet, quell'autoerotismo a base di toccino. E andare ad abitare in Francia. Dal numero di ottobre del mensile Altra Economia riprendiamo una notizia riguardante il rapporto Meat Atlas, dedicato all'impatto ambientale dell'industria della carne. Secondo il rapporto, curato da Friends of the Earth, Amici della Terra, le 10 più grandi aziende zootecniche al mondo producono più emissioni climalteranti dell'intera Germania o di colossi degli idrocarburi, per prendere un altro metro di comparazione, come Exxon e Shell. Non solo la sofferenza animale, gli esseri viventi trattati come pura carne, dunque, ma anche un contributo significativo all'effetto serra. Questo produce l'industria della carne. Il rapporto fa anche notare un altro aspetto cruciale: il forte sostegno garantito al settore dagli investitori finanziari. Banche, fondi pensione, fondi di investimento, fra 2015 e 2020 hanno garantito al comparto oltre 478 miliardi di dollari. Sono finanziamenti erogati in vista di ulteriori espansioni del mercato, l'opposto di ciò che servirebbe per contrastare i cambiamenti climatici in corso. Stanka Beceva, di Amici della Terra, nel presentare il rapporto, ha detto: bisogna ridurre il numero di animali allevati sul pianeta incentivando modelli di consumo diversi. E bisogna anche assicurarsi, ha aggiunto, che le aziende paghino per i danni causati. Le sbarbine sono carine. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine c'hanno gli occhi. Yeah, yeah, yeah. Le sbarbine con i tacchi. Mi piacciono le sbarbine. Che mi mandano nei matti. So che non conviene. No, no, no, no. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Io voglio starci assieme. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde. Le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante. Le sbarbine in amore. Yes. Come sostengono gli Amici della Terra nel loro rapporto, cambiare l'alimentazione, e farlo tutti, è una delle vie possibili per ridurre l'impatto delle produzioni alimentari sul clima. Si tratta quindi di favorire il consumo di cibi su base prevalentemente vegetale. Non esiste però ancora un'organica strategia da parte dei governi nazionali, che sembrano esitare a intraprendere questa strada, sia per il timore di suscitare avversioni fra i cittadini, sia perché un piano organico del genere dovrebbe prevedere anche la conversione industriale di molte aziende attive nella filiera della carne. Ci vorrebbe quindi un progetto di largo respiro. In attesa che qualcosa del genere si metta in moto, qualcosa accade per iniziativa dei singoli consumatori. Ancora troppo poco, per carità. E secondo una modalità, l'iniziativa spontanea del singolo, appunto, che da sola non può portare molto lontano. Comunque sia, registriamo continuamente segnali di uno spostamento lento ma costante delle preferenze alimentari, con un esodo dalla carne verso i vegetali. L'ultimo segnale arriva dal rapporto COP 2021, secondo il quale le proteine di origine vegetale sono cresciute in un anno nei consumi del 3,1% e rappresentano ormai il 22% di tutte quelle assunte. Unione Italiana Food, sulla base del rapporto COP 2021, precisa che si tratta di un cambiamento dovuto anche alla pandemia, visto che il 42% degli italiani afferma di mangiare oggi in modo più sano ed equilibrato rispetto a prima dell'esplosione del Covid e il 26% dice di aver ridotto il consumo di proteine animali. I consumatori, afferma il presidente del gruppo prodotti a base vegetale di Unione Italiana Food, Salvatore Castiglione, sono consapevoli dei benefici per l'organismo e per la salute del pianeta derivanti da una dieta ricca di frutta, verdura, cereali, pasta integrale e cibi a base vegetale. E tuttavia lo stesso Castiglione, forse spaventato dalle sue stesse parole, aggiunge che questo però non vuol dire che smetteremo di mangiare le proteine animali perché a tavola c'è posto per tutti. È solamente in corso un cambiamento delle quantità e della frequenza con cui le mangeremo. Chi vivrà, vedrà. È stato Gino. E chi era il vestito di quartiere? Gino, Gino. E chi lo vedi vestiti dopo di mano? Sempre Gino. E chi era poi da quest'anno? È stato Gino. E noi a Gino lo vedamo. È stato Gino. E noi a Gino lo vedamo. Lo vedamo, lo vedamo. Sì, sì, sì, lo vedamo. Noi a Gino lo vedamo. Lo vedamo. È Gino che ha preso i divanieri. No, non è stato Gino. E chi è capace di Gino? No, Gino no. Gino che l'ha messo a sbagliare. No, non è stato Gino. E chi è che ha messo a sbagliare? Gino. Quotidiane agenzie di stampa segnalano da qualche tempo uno degli effetti della Brexit nel Regno Unito. A causa delle restrizioni agli ingressi, oltre a certe merci, cominciano a scarseggiare anche i lavoratori. È nota l'emergenza camionisti, con la contrazione del trasporto su gomma, che ha creato problemi di approvvigionamento piuttosto seri. Mancano però anche i lavoratori dei macelli. La categoria con il più alto numero di lavoratori stranieri, vista la gravosità morale e materiale del lavoro. I notiziari hanno parlato di mattanze crudeli e inutili da eseguire in allevamento per l'impossibilità di avviare gli animali a macelli ormai sguarniti di personale. La crudeltà della mattanza citata in questi interventi è facilmente intuibile e non è in fondo molto diversa da quella che si trova nei normali macelli, mentre l'inutilità indicata dai notiziari, riguarda lo spreco. Le carni degli animali, e si tratta per lo più di maiali, non potranno essere mangiate, perché le esecuzioni avvenute in allevamento non possono avere il via libera degli uffici sanitari di controllo per la commercializzazione e il consumo delle carni. Tutto questo ci pare uno spaccato realistico e terribile di ciò che anodinamente definiamo filiera della carne. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci ha promesso per questa puntata una ricetta sorpresa, scollegata per una volta dalle notizie della settimana. Sentiamo che cosa ha pensato per noi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Halloween si avvicina e la ricetta di oggi è un po' spooky. E non fate tradizionalisti, tanto lo so che il 31 poi vi travestite per andare a fare dolcetto o scherzetto. Gli ingredienti per 4 persone per la crostata di ogni santi sono: per la frolla nera un cucchiaio di lecitina di soia, 50 ml di latte di soia, 100 ml di olio di semi di girasole, 300 g di farina tipo 0, 25 g di farina di riso, 25 g di fecola, 5 g di carbone vegetale, 60 ml di acqua, 100 g di zucchero di canna, un po' di vaniglia, un pizzico di crema or tartaro, un pizzico di sale e un pizzico di pepe nero. Per la crema alla zucca, 250 g di polpa di zucca, 250 ml di latte di mandorle o altra bevanda vegetale, 50 ml di amaretto, 70 g di zucchero di canna, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 50 ml di olio di semi di girasole, 60 g di farina tipo 0, un pizzico di curcuma in polvere e un pizzico di noce moscata. Lasciate sciogliere la lecitina nel latte di soia per una decina di minuti. Unite l'olio di semi ed emulsionate il tutto con un frullatore ad immersione. Unite tutti gli ingredienti per realizzare la frolla nera e mescolate velocemente con le mani o con una planetaria. L'importante è non lavorare troppo l'impasto perché rimanga friabile e non diventi gommoso. Avvolgete l'impasto così ottenuto con della pellicola e fatelo riposare almeno 30 minuti in frigorifero. Nel frattempo preparate la crema. Tagliate la zucca a cubetti piccoli e fatela rosolare in una casseruola con un cucchiaio di olio extravergine. Bagnate con l'amaretto e lasciate sfumare. Quindi aggiungete la curcuma, la noce moscata, lo zucchero di canna e il latte di mandorle e lasciate cuocere coperto a fuoco lento fino a quando la zucca sarà molto morbida. Togliete dal fuoco e frullate con un mixer. A parte, stemperate la farina nell'olio di semi di girasole e fate tostare per qualche minuto. Quindi, mescolando con una frusta, versate il mix di zucca e latte di mandorle ancora caldo. Lasciate addensare a fuoco lento, sempre mescolando. Quando la crema sarà ben soda, togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Recuperate la frolla e stendetela col mattarello ad uno spessore di circa mezzo centimetro e foderate uno stampo da crostata. Versate la crema e terminate la crostata con delle strisce di frolla. Fate cuocere per 35-40 minuti a 170 gradi a forno statico. Togliete dal forno e lasciate raffreddare prima di servire. Un'idea divertente potrebbe essere quella di realizzare una ragnatela con le strisce di frolla al posto della tradizionale griglia. Siamo ormai alla vigilia di COP26, il vertice globale sul clima in programma a Glasgow, e con Francesco Panier proseguiamo nell'esplorazione delle istituzioni cui sono affidate le strategie per uscire dalla crisi climatica che sta funestando il pianeta, minacciando il futuro di tutti i viventi. Oggi Francesco, per la sua rubrica Lessico dell'Antropocene, ci parla degli scienziati che studiano i cambiamenti climatici. Oggi possiamo quasi dire di vivere in una repubblica della scienza, un contesto in cui si muove anche gran parte dell'ambientalismo. Pensiamo agli slogan dei Fridays for Future o quelli del WWF. Ascoltare gli scienziati è diventato il nuovo mantra. Dal canto loro i cosiddetti esperti vivono un momento d'oro tra ospitate in televisione e citazioni sui giornali. Il gota dell'expertise climatica è l'IPCC, il foro scientifico formato da due organismi delle Nazioni Unite: l'Organizzazione Meteorologica Mondiale e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Lo scopo era studiare il fenomeno del riscaldamento globale. L'IPCC, International Panel on Climate Change, si organizza in gruppi di lavoro e produce report di valutazione periodici sull'andamento del global warming, delineando scenari per superare il problema. Chiunque voglia parlare di clima oggi deve farlo citando i dati dell'IPCC. Qualcuno però si è chiesto se gli scenari proposti dal gruppo fossero davvero gli unici possibili. Due ricercatori, Lawrence Kaiser e Manfred Lenzen, in un articolo su Nature del 2021 hanno per esempio obiettato che queste valutazioni fanno troppo affidamento su tecnologie per il risucchio delle emissioni ancora in fase sperimentale e con costi improponibili, mentre dimenticano di prendere in considerazione politiche di decrescita, ad esempio, attuabili immediatamente e con risultati misurabili. Altri mettono in questione la scarsa rappresentanza degli scienziati sociali e degli ecologi nel gruppo di scienziati che si occupa di cambiamento climatico, eppure questi avrebbero molto da aggiungere alle discussioni dei fisici dell'atmosfera o dei biologi. Ecco che quindi la scienza che governa le nostre esistenze e muove le scelte politiche, vediamo che non è l'unica possibile. Anzi, è una scienza dura, meccanicista, riduzionista, pronta a scommettere sull'innovazione tecnologica sottovalutando le radici che la crisi climatica affonda nella mentalità che produce disuguaglianza e sfruttamento, ancora prima che gas serra. Questa tendenza a cercare un colpevole, quindi, nella molecola di carbonio invece che nei rapporti sociali, ha depoliticizzato una questione chiave come il discorso sul cambiamento climatico, relegandolo nell'alveo della scienza e della tecnica e marginalizzando il punto di vista della giustizia sociale. Una pressione fortissima delle lobby industriali fa il resto, rendendo preoccupante l'incapacità dell'IPCC di prendere di mira i veri responsabili, come le grandi compagnie fossili o l'allevamento intensivo. Questa situazione imbarazzante ha spinto il sociologo Robert Brulle a paragonare un report dell'IPCC alla storia di Star Wars senza Darth Vader, cioè senza il cattivo per eccellenza. Le analisi del panel intergovernativo sul cambiamento climatico rimangono però di alto valore tecnico-scientifico, ma quando si avventurano nella proposta di soluzioni mostrano tutta la difficoltà della scienza istituzionale di pensare fuori dagli schemi. Più che dei negazionisti climatici, che sì esistono ma sono una minoranza sempre meno influente, oggi dovremmo quindi preoccuparci di discutere di più la scienza ufficiale, che come abbiamo visto non è buona a prescindere. Ti amo. Anche in quei giorni non mi chiedermi di farti lo stufato quando torni, non mi chiedermi il teorema di Pitagora, non ho la licenza media in prima, mi bocciarono, non mi chiedermi di avere gambe lisce come seta, la ricrescita è una piaga e non mi bastano alla meta, ci vorrebbe un diserbante dedicato, io ce l'ho, spero solo che rispetti il mio pH. Confettini perfetti, girls band. Oh, quando uno è naturale, naturale. Office. Tra l'altro, questo motivetto niente male. Non mi chiedermi un orgasmo che non so come si scrive. Non mi chiedermi se ho sexy più la fronte o le gengive. Non mi chiedermi di coniugarti i verbi, non li so. Se li avrei saputi, in molte li imparavo. Non mi chiedermi di amarti con le tecniche orientali. Cercare di sorprendermi all'incrocio dei miei pali. Non mi chiedermi di rivelarti dove è il punto G. Con il mio alfabeto arrivo fino a F. Girls band. Belle ragazze collocate perfette. Office. Noi siamo top e dalle vedute strette. Girls band. Sinceramente non capisco chi ci piace, ma Office. Nei nostri playback ci mettiamo l'anima. Chiudiamo citando un'intervista uscita sul quotidiano Domani, a cura della giornalista Stella Levantesi. Vi si parla delle strategie di protezione della natura avviate in Africa fin dal secolo scorso. Chi parla è Mordecai Ogada, biologo della fauna selvatica e rappresentante di Conservation Solution Africa, un'organizzazione che si occupa di sviluppo della gestione ambientale nel continente. Ebbene, Ogada accusa senza mezzi termini di colonialismo l'idea occidentale di conservazione della natura. Questo modello di conservazione, dice Ogada, è costruito attorno a strutture create dai governi coloniali. Quello che precedeva queste strutture era un'etica, ancora esistente, con i popoli indigeni che convivono con la fauna selvatica, senza separazioni. Quello che abbiamo ora sono invece parchi nazionali inaccessibili agli abitanti, dai quali gli abitanti sono espulsi. La separazione degli uomini dalla natura, dice Ogada, viene dalla cultura coloniale e dobbiamo sbarazzarci di questo tipo di pensiero. Se pensate a Yellowstone negli Stati Uniti, il più famoso e il più antico dei parchi, conclude Ogada, vedete che i nativi americani lì sono stati rimossi per fare spazio al parco e questo avveniva alla fine dell'Ottocento. Lo stesso è accaduto per il Serengeti in Tanzania o per il Parco Tsavo in Kenya. E questa pratica, dice Ogada, non può andare avanti. Insomma, c'è tutta una cultura dell'ambientalismo e della conservazione da ripensare. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no. Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Per questa settimana è tutto. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Gianluca Masala, Anna Granata, Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Francesco Panier, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. Per questa puntata è tutto, appuntamento fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.